soldi. Porte, Palestina, no! Sogno di latta, salvi, salvi. Sogni di donna, caldi, caldi. Ah. Soldi, soldi, soldi. Di voler comprare tutto. Noi qui, figli del boom, abbiamo perso anche l'immunità, il contagio della liquidità. Ora che l'impero si è piazzato, decisamente sospettoso. Dalle uova d'oro con faccia da maiale.